E mentre un sorriso disincantato increspava graziosamente la sua bocca dolorosa, la duchessa fissò Madame d'Arpajon con lo sguardo pensoso dei suoi occhi chiari e affascinanti. Cominciavo a conoscerli, al pari della sua voce, così gravemente strascicata, così aspramente saporita. In quegli occhi, in quella voce, ritrovavo molto della natura di Combré. Certo, nell'affettazione con cui la voce di Madame de Guermantes lasciava trasparire a tratti una rudezza contadina, c'erano molte cose. L'origine tutta provinciale di un ramo della famiglia Guermantes, rimasto per più tempo localizzato e più ardito, più selvatico e più provocante. L'abitudine delle persone veramente distinte, delle persone di spirito, le quali sanno che la distinzione non consiste nel parlare a fior di labbra, nonché dei nobili, che fraternizzano più volentieri con i loro contadini che con i borghesi. Tutte caratteristiche che la posizione regale di Madame de Guermantes le aveva permesso di esibire più facilmente, di far uscire a vele spiegate. La stessa voce l'avevano, pare, certe sue sorelle, che lei detestava e che, meno intelligenti e sposate in modo quasi borghese, se si può applicare questo aggettivo a unioni con nobili oscuri, rintanati nella loro provincia, o a Parigi in un Faubourg Saint-Germain privo di ogni splendore, pur possedendo quella voce, l'avevano tenuta a freno, corretta, addolcita più che potevano, giacché è ben raro che si abbia il coraggio della propria originalità e non si faccia di tutto per assomigliare ai modelli più universalmente apprezzati. Ma Oriane era a tal punto più intelligente, più ricca e soprattutto più alla moda delle sue sorelle, aveva decretato con tanta autorità come principessa de Lume il bello e il cattivo tempo nel giro del principe di Galles, da rendersi conto della capacità di seduzione insita in quella sua voce stonata e da riuscire a farne in campo mondano, con l'audacia dell'originalità e del successo, ciò che in campo teatrale avevano fatto della loro una Regine, una Jean Granier, senza voler restituire, ben inteso, alcun paragone fra il valore e il talento di queste due attrici, qualcosa di ammirevole e inconfondibile che, magari, qualche sorella Regine o Granier, a tutti ignota, ha cercato di mascherare come un difetto. Ha tante ragioni per ostentare la sua originalità locale. Gli scrittori preferiti di Madame de Guermantes, Mérimée, Meillac e Halévy, avevano aggiunto, col rispetto del naturale, un desiderio di prosaicità che le consentiva di attingere la poesia e uno spirito puramente di società che faceva rinascere, davanti ai miei occhi, determinati paesaggi. D'altronde, sommando a tali influssi una ricerca d'artista, la duchessa era capacissima d'aver scelto per la maggior parte delle parole la pronuncia che le sembrasse più Île-de-France, più Champagne, giacché, sebbene non proprio a livello di sua cognata Marsant, usava quasi esclusivamente un vocabolario di cui si sarebbe potuto servire un vecchio scrittore francese. E quando si era stanchi del composito e variegato linguaggio moderno, era, pur sapendo che esprimeva assai meno cose, un grande riposo ascoltare la conversazione di Madame de Guermantes. Lo stesso quasi, se si era soli con lei e lei ne restringeva e l'impediva ancor più la corrente, che si prova a sentire una vecchia canzone. Allora, guardando, ascoltando Madame de Guermantes, io vedevo, prigioniero della perpetua quiete pomeridiana dei suoi occhi, un cielo d'Île-de-France o di Champagne incurvarsi, azzurrastro, obliquo, con lo stesso angolo d'inclinazione che contrassegnava lo sguardo di Saint-Loup. Così, grazie a quelle diverse formulazioni, Madame de Guermantes esprimeva, al tempo stesso, la più antica Francia aristocratica, poi, con un salto di secoli, il modo in cui la duchessa di Broglie avrebbe potuto gustare e biasimare Victor Hugo sotto la monarchia di luglio e infine una viva propensione per la letteratura venuta fuori da Mérimée e da Meilhac. La prima di queste formazioni mi piaceva più della seconda, mi aiutava di più a superare la delusione del viaggio e dell'arrivo in quel Faubourg Saint-Germain così diverso da come l'avevo supposto, ma comunque preferivo la seconda alla terza. Ora, mentre Madame de Guermantes era Guermantes quasi senza volerlo, la sua passione per Pailleron, per Dumas figlio, era riflessa e voluta. Poiché questa passione esprimeva gusti opposti ai miei, la duchessa stimolava il mio senso della letteratura quando mi parlava del Faubourg Saint-Germain e non mi sembrava mai così stupidamente Faubourg Saint-Germain come quando mi parlava di letteratura. Commossa dalle ultime citazioni, Madame d'Arpajon esclamò: «Ces reliques du corps ont aussi leur poussière». «Signore», aggiunse rivolta al duca, «dovreste scrivermelo sul ventaglio questo verso». «Poveretta, mi fa pena», mormorò la principessa di Parma a Madame de Guermantes. «No, madame, non deve intenerirsi. Quella donna ha solo ciò che si merita. Eppure, perdonatemi se lo dico proprio a voi, eppure lo ama veramente. Ma niente affatto, né incapace. Crede di amarlo nello stesso modo in cui adesso è convinta di aver citato Victor Hugo perché ha detto un verso di Musset. Credetemi», proseguì la duchessa in tono malinconico, «nessuno sarebbe più colpito di me da un sentimento vero, ma vi fornisco un esempio. Non più tardi di ieri ha fatto una scenata terribile a Bazin. Vostra Altezza pensa forse che gliel'abbia fatta perché è innamorato di un'altra o perché non l'ama più? Ma che? Nemmeno per sogno. Era perché Bazin non vuol presentare i suoi figli al jockey. A Madame sembra che questo sia il comportamento di una donna innamorata? No, dirò di più», aggiunse meticolosa Madame de Guermantes. «È una persona di un'insensibilità rara». Intanto, il signor di Guermantes era stato ad ascoltare con occhio sfavillante di soddisfazione sua moglie che parlava all'impronto di Victor Hugo citandone alcuni versi. La duchessa aveva un bel irritarlo così spesso. In momenti come questo era fiero di lei. «Oriane è veramente straordinaria. Può parlare di tutto, ha letto tutto. Non poteva certo prevedere che la conversazione stasera sarebbe caduta su Victor Hugo. Qualsiasi argomento si tiri fuori, lei è sempre pronta, in grado di tener testa ai più dotti. Quel giovanotto deve essere ammaliato». «Ma cambiamo discorso», suggerì Madame de Guermantes, «perché la nostra amica è alquanto suscettibile. Mi troverete certo assai poco alla moda», riprese rivolgendosi a me. «So che oggi amare le idee in poesia, la poesia in cui ci sia un pensiero, è considerato una debolezza». «Non è più alla moda?» esclamò la principessa di Parma, tradendo la leggera emozione provocatale da questa nuova ondata che l'era giunta in attesa, benché sapesse che la conversazione della duchessa di Guermantes le riservava sempre quel delizioso succedersi di traumi, quello spavento mozzafiato, quella sana stanchezza dopo i quali il suo pensiero correva istintivamente alla necessità di un pediluvio in una cabina o di una bella camminata per fare reazione. «Per quel che mi riguarda, Oriane, non è così», intervenne Madame de Brissac. «Non rimprovero affatto a Victor Hugo di avere delle idee, tutt'altro, ma di cercarle in ciò che è mostruoso. In fondo è lui che ci ha abituati al brutto in letteratura. Ci sono già abbastanza brutture nella vita. Perché non dimenticarle, almeno mentre leggiamo? Uno spettacolo penoso dal quale, per la strada, distoglieremo gli occhi. È questo che attira Victor Hugo. Non è però realista quanto Zola. Non è vero, Victor Hugo?» si informò la principessa di Parma. Il nome di Zola non fece muovere un solo muscolo nel volto del signor di Beutreuil. L'antidreyfusismo del generale era troppo profondo perché egli cercasse di esprimerlo, e il suo benevolo silenzio, quando si abbordavano simili argomenti, commuoveva i profani per una delicatezza simile a quella dimostrata da un prete nell'evitare di ricordarvi i vostri doveri religiosi, da un finanziere nel fare attenzione a non raccomandarvi gli investimenti dei quali si occupa, da un Ercole nel rinunciare con dolcezza a prendervi a pugni. «So che siete parente dell'ammiraglio Jurien de la Gravière», mi disse in tono d'intesa Madame de Varambon, dama d'onore della principessa di Parma, donna tanto eccellente quanto ottusa, procurata alla principessa, in anni ormai lontani, dalla madre del duca. Non mi aveva ancora rivolto la parola, e mi fu assolutamente impossibile, in seguito, nonostante gli ammonimenti della principessa di Parma e le mie stesse proteste, toglierle dalla testa l'idea che io avessi qualcosa a che vedere con quell'ammiraglio accademico a me totalmente sconosciuto. L'ostinazione della dama d'onore della principessa di Parma nel vedere in me un nipote dell'ammiraglio Jurien de la Gravière aveva in sé qualcosa di volgarmente risibile, ma il suo errore non era altro che la tipizzazione esasperata e inaridita di tanti errori più lievi, più sfumati, involontari o voluti, che accompagnano il nostro nome nella scheda compilata sul nostro conto dalla società. Ricordo un amico dei Guermantes, il quale giustificò il suo vivo desiderio di fare la mia conoscenza adducendo la mia intimità con sua cugina, Madame de Chassegrau, una donna incantevole che vi vuole molto bene. Mi feci uno scrupolo d'insistere che doveva esserci un errore, che non conoscevo affatto Madame de Chassegrau. Invano. «Allora è sua sorella che vi conosce? È la stessa cosa. Vi siete incontrati in Scozia?» Non ero mai stato in Scozia e mi sottoposi all'inutile fatica di notificarlo, per onestà, al mio interlocutore. La stessa Madame de Chassegrau aveva detto di conoscermi e, senza dubbio, ne era sinceramente convinta, come conseguenza di una confusione originaria. Tant'è vero che perseverò nel tendermi la mano non appena mi scorgeva. E poiché, tutto sommato, l'ambiente che frequentavo era esattamente quello di Madame de Chassegrau, la mia umiltà non aveva alcun senso. La mia intimità con i Chassegrau era, letteralmente parlando, un errore, ma dal punto di vista sociale corrispondeva alla mia posizione, ammesso che tale concetto si possa applicare a un giovincello qual ero allora. L'amico de Guermantes ebbe un bel riferirmi sul mio conto notizie assolutamente false. Non mi fece né salire né scendere, dal punto di vista mondano, nella considerazione che continuò ad avere di me. E in fin dei conti, per coloro che non recitano, la noia di vivere sempre nello stesso personaggio si dissipa per un istante, come se si fosse proiettati sul palcoscenico, quando qualcun altro si fa di noi un'idea sbagliata, ci attribuisce una relazione con una signora che nemmeno conosciamo e che avremmo conosciuta durante uno splendido viaggio al quale non abbiamo mai preso parte. Sbagli simpaticamente moltiplicatori, sempre che non abbiano l'inflessibile rigidità di quello che commetteva e commise per tutta la vita a onta dei miei dinieghi quell'imbecille della dama d'onore della principessa di Parma, ancorata per l'eternità alla convinzione della mia parentela con il noioso ammiraglio Jurien de la Gravière. «Non ha una gran testa quella dama», mi disse il duca, «e poi non dovrebbe cedere con le libagioni, probabilmente è sotto un lieve influsso di bacco». In realtà, Madame de Varambon non aveva bevuto che acqua, ma il duca amava piazzare le sue locuzioni preferite. «Ma Zola non è un realista, signora, è un poeta», esclamò Madame de Guermantes, ispirandosi a studi critici letti negli ultimi anni e adattandoli al suo personale talento. Gradevolmente sballottata, fino a quel momento, dal bagno di intelligenza, per lei così agitato di quella sera, che pensava dovesse riuscirle particolarmente salutare e nel corso del quale si era lasciata trasportare dai paradossi che si frangevano uno dopo l'altro, stavolta, davanti a quella nuova ondata più enorme delle altre, la principessa di Parma fece un salto per timore d'esserne travolta e fu con voce spezzata, come se faticasse a respirare, che ripeté «Sola un poeta!» «Ma sì!» rispose ridendo la duchessa, felice di quell'effetto di soffocamento. «Vostra Altezza osservi come ingrandisce tutto ciò che tocca. Mi direte che tocca solo ciò che porta fortuna, ma ne fa qualcosa di immenso. Il suo è un letamaio epico, è l'Omero delle fogne. Non gli bastano mai le maiuscole per scrivere la parola di Cambronne.